Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Scavarsi Fuori, ovvero un anno verde. Ho scoperto che l'idea di me che hanno molte persone è che io sia quella brava a cambiare. In effetti ho una laurea in giurisprudenza e insegno yoga da 22 anni. Ho lavorato nella formazione e in multinazionale. Ho vissuto da sola per moltissimi anni, ho convissuto in due relazioni importanti, ho condiviso casa con altri inquilini e inquiline. Sono stata dall'altra parte del mondo in solitaria. Ho ricominciato da zero due volte in due anni. Mi piacerebbe che tu riflettessi e magari mi raccontassi quali sono stati i tuoi cambiamenti interessanti finora. Quando, adattandoti a una situazione, hai scoperto che lontano dall'idea che avevi inizialmente, magari lontano anche da qualche etichetta ereditata da famiglia e società, ci stavi bene? Inizio io. Viaggiare in solitaria per me è molto interessante perché mi permette di contaminarmi un po' di più con il luogo in cui mi trovo. Mentre viaggiare anche con solo un'altra persona è certamente bello, è più rassicurante, ma mi tiene in una bolla. Ci sono arrivata a 16 anni, attraversando gli Stati Uniti in autobus perché avevo finito i soldi e non volevo chiedere alla mia famiglia di mandarmene. Insomma, un caso mi ha messa in una situazione nuova e, mentre decidevo di provare una soluzione diversa dall'ovvio, ho smantellato una barca di pregiudizi. Per inciso, sconsiglierei a qualunque sedicenne di attraversare l'America improvvisando e per conto proprio. Qual è stata quella volta che hai cambiato punto di vista e sei andata o andato oltre un'idea preconcetta? Scavarsi, tirando fuori da etichette e convenzioni, dal si deve fare così, dallo sta bene così, il proprio posto nel mondo che, spoiler alert, potrebbe anche andare oltre l'abbinata matrimonio, mutuo, prole, in alcuni casi può comprenderli, oppure può esaurirsi in essi. Può anche non toccarli nemmeno per sbaglio, ci sono tante varianti quanti sono gli esseri umani, figurarsi se non c'è quella per te. Il nostro posto nel mondo è il nostro modo di occupare quello spazio che è solo ed esclusivamente nostro. Trovando quello spazio autentico, potremo guardare le altre persone senza giudizio, con altrettanta autentica accoglienza. Solo scoprendo il nostro posto nel mondo potremo agire nel nostro affare quotidiano con la giusta postura, cioè con l'energia appropriata. Pensaci, che risultato avresti se cercassi di addormentare un bebè con la stessa postura, con la stessa energia con cui parteciperesti a un'assemblea condominiale o viceversa? Ecco, per questo anno appena iniziato ti auguro di stare sempre meglio in te stessa o te stesso. Più autenticità e meno buoni propositi. Più sorrisi e respiri liberi e meno sforzi di volontà. E ti auguro di farlo insieme a chi davvero conta per te. Se vuoi iniziare insieme a me, da martedì prossimo 10 gennaio e per 4 martedì di gennaio, dalle 19.30 alle 21 se vuoi partecipare in diretta e con le registrazioni se preferisci seguire coi tuoi tempi, c'è una nuova edizione di Imposizione Strategica, yoga per abbracciare la postura. Avremo come alleati 4 arcani maggiori dei tarocchi per scoprire la nostra postura buona davvero. Il 10 gennaio avremo il carro, il 17 il matto, il 24 la temperanza e il 31 gennaio il mondo. Se vieni con un'amica o un amico avrete tutte e due uno sconto, quindi scrivimi per partecipare. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Patrizia Cavalli, dalla sua raccolta Vita meravigliosa. Quel verde che, secondo gli studi sul cervello, non dovrebbe in sé esistere, proprio non dovrebbe, se non nel nostro attrezzatissimo cervello. È così bello, così assolutamente, irresistibilmente bello. Ha sfumature talmente nuove, talmente sconosciute, che io non posso credere che dipenda da me, dalle mie cellule. Lui mi sorprende, esiste in sé e la luce lo sorprende. Un grande abbraccio verde. Laura.